Capitolo 31. Finale Emilia. Confine doganale tra i ducati di Modena e Ferrara. 2 aprile 1549. La stazione di cambio è un cascinale isolato in mezzo alla terra piatta e uguale. Qualche boschetto sparso a interrompere la linea continua dell'orizzonte. Il cavallo è stanco, la schiena e le gambe anche. Il cortile interno è un viavai di galline e passeri che si contendono briciole invisibili nella ghiaia. Un vecchio cane mi abbaia poco convinto, probabilmente costretto dal dovere degli anni persi a guardia di questo posto. «Oi là, stagliere! C'è un posto per questo ronzino?» Un tipo robusto, baffi che scendono lungo il mento, mi indica una porta bassa, l'anta superiore chiusa. Smonto a fatica e faccio qualche passo con le gambe ancora allargate dalla sella. Prende le redini. «Brutta giornata per viaggiare!» «Perché?» Un gesto vago, verso ovest. Temporale. La strada diventerà un fiume di fango. Alzo le spalle. Vorrà dire che mi fermerò. Scuote la testa. Niente letti. Tutto pieno. Mi guardo intorno in cerca delle tracce di sovraffollamento, ma il cortile è vuoto. Dalla casa neanche un rumore. Lo stagliere schiocca la lingua. Il baffo scatta all'insù. Aspettiamo un vescovo. Potrei sistemarmi nel fienile. Un'altra alzata di spalle, mentre sparisce dentro la stalla con il cavallo. Il cane è tornato a stendersi al sole. I ciuffi di pelo grigio intorno al muso ne fanno la copia animale dello stalliere. Quando lo vedo riemergere dall'ombra, sorrido pensando alla somiglianza. «Quanti anni ha? Il cane? Oh, 8, 9 più o meno. È vecchio, sta perdendo i denti. Tra poco dovrò ammazzarlo». Occhi stretti in fessure e zampe distese. Solo un lieve movimento della coda e l'alzarsi di un sopracciglio. Anche le espressioni ricordano quelle del padrone. Mi stiracchio, producendo un notevole scricchiolio delle ossa. «Dentro c'è zuppa calda, se volete. Chiedete a mia moglie». «Ottimo, ma non vorrete servirla al vescovo, mi auguro». Si ferma perplesso, grattandosi la nuca sudata. «Beh, non abbiamo dei gran signori da queste parti. Non c'è mai venuto un vescovo qui». Mi chino per controllare che le ginocchia funzionino ancora. Roteo la testa e sono come nuovo. Ci pensa. «In effetti è un bel guaio. Tutto il seguito, i lacchè, i segretari, i servitori, le guardie personali». Sbuffa preoccupato e alza le spalle. «Si accontenteranno». Sale le scale per rientrare in casa. «Per il lacchè, le guardie e la zuppa va bene, ma per il vescovo ci vorrebbe della cacciagione. A proposito, chi è?» Si ferma sulla porta. «Vescovo cardinale, sua signoria Giovanni Maria del Monte Ciocchi. Viene da Mantova, in viaggio verso Roma». «Ah sì, sarà per il conclave. Dicono che il Papa stia male, ma mi sa che i papi sono duri a morire». Si guarda la punta delle scarpe perplesso, indeciso se mandarmi al diavolo o darmi corda. «Io non so un bel niente. Devo soltanto ospitare il vescovo e il seguito per una notte». «Sì, sì, ma non avete cacciagione da servire per cena?» Diventa paonazzo. Se non ci fosse la scala a dividerci, temerei per il mio collo. «Oggi non ce n'è. È una stazione di cambio, non un albergo». Entra in casa. Ridacchio da solo e mi avvicino al cane. Adesso sembra tranquillo. Si lascia accarezzare. Non deve avere più una gran voglia di ringhiare. E nemmeno di vivere. Tra poco scoccherà la sua ora. «Tu non stai meglio del Papa, e almeno non hai uno stuolo di avvoltoi che ti gira sulla testa». Il cardinale del monte. Zelante o spirituale? Con carafa o con Paul? Mantovano. Il cagnaccio mi pianta in faccia uno sbadiglio sdentato. Mantovano, come frate Benedetto Fontanini. Zelante o spirituale? Le insegne vescovili sugli sportelli della carrozza sono schizzate di fango. Una dozzina di uomini armati bivacca sulla ghiaia del cortile. Andirivieni su e giù per le scale. Lo stagliere si affretta a ripulire lo stemma con uno straccio. I soldati mi lanciano appena un'occhiata stanca. Il vestito buono che indosso deve darmi l'aria del cortigiano. Un tipo smilzo scende le scale a piccoli saltelli, chiuso in una cappa elegante. Un cappello ridicolo in testa, sulla trentina. Si rivolge allo stagliere. «Sua signoria gradirebbe l'acqua calda prima di desinare». Tono saccente e schifato. Il baffone annuisce, con l'aria più stolta del mondo, lascia perdere la carrozza e si precipita su per le scale. Mi avvicino. A queste stazioni il servizio lascia sempre più a desiderare. Lo colgo alla sprovvista. Non trova di meglio che annuire. È davvero scandaloso. Un uomo di quel calibro. Non riesce a guardarmi. L'aria cordiale lo disorienta. Dopo tanta strada, alla sua età. E con tutte quelle preoccupazioni. Decide di reagire. Occhietti grigi che guardano dall'alto. Siete per caso conterraneo di sua signoria? No, messere. Io sono tedesco di origine. Ah, l'espressione di chi ha colto una verità profonda. Io sono Felice Figliucci, segretario di sua signoria. Tiziano, come il pittore. Un lieve inchino reciproco. Andate a Roma, immagino. Infatti, ripartiamo domattina. Tempi duri. Già, il Papa... Restiamo in silenzio, per un istante, guardando in basso, come stessimo riflettendo su profonde questioni teologiche. So che vorrebbe congedarsi, ma non gli lascio il tempo. Se posso fare qualcosa per sua signoria, non esitate a chiederlo. Gentile è da parte vostra? Certo. Per l'appunto è il caso che torni su a sincerarmi che tutto vada bene. Si congeda, imbarazzato. Piove a dirotto, ma ho una gran voglia di fumare un sigaro. Al riparo, sotto una tettoia, soffio il fumo in faccia al temporale. Del vecchio cane neanche l'ombra. Il riflesso degli occhi di un gatto, prima che scompaia, oltre una grata. Battezzerò con metodo la gente giusta che possa costituire il nucleo di una vera e propria setta. Agli inquisitori le sette piacciono. Ci puoi favoleggiare sopra all'infinito. Puoi attribuire loro di tutto. Lo scontento popolare, la peste, la prostituzione, la sterilità di tua moglie. Servono degli apostoli, che vadano in giro a ribattezzare, proprio come fece il vecchio Mattis. Qualcuno ce l'ho già in mente. Qualche ferrarese, ma devo arrivare più lontano. Modena, Bologna, Firenze. Poi ci sono le Romagne. Sembra che gli abitanti di quelle terre siano i più turbolenti, tra tutti i sudditi del Papa. Potrebbe essere interessante raggiungere qualcuno laggiù. Eresia e rivolta. Cosa ancora? Tengo il sigaro tra i denti e incrocio le mani dietro la schiena. Un brivido mi dice che è meglio rientrare. Non posso permettermi malattie. Nella sala il camino è ancora acceso. Qualcuno sta aizzando il fuoco con un attizzatoio. Sagoma scura di spalle, seduta su una delle sediacce di legno della locanda. Una camicia di flanella lunga fino ai piedi a coprire la stazza e la papalina purpurea sulla chierica. Si volta appena quando avverte la mia presenza. Mi affretto a tranquillizzarlo. Non temete, signoria, è soltanto il passo di un insonne. Uno strano verso, a metà fra il mugugno e lo sbuffo, occhi cerchiati che sprofondano sopra le guance rugose. Allora siamo in due, figlio. Posso aiutarvi? Cercavo di ravvivare questo fuoco per riuscire a leggere qualche riga. Mi avvicino, raccolgo il mantice e mi metto a soffiare sulla brace. L'insonnia è una brutta bestia. Potete dirlo forte, ma quando si è giunti all'età di 66 anni, non bisogna lamentarsi troppo e accettare con umiltà quello che il buon Dio ci manda. Dobbiamo essere grati di avere ancora gli occhi buoni per riuscire a leggere e ingannare le ore notturne. Il fuoco ha ripreso a scoppiettare. Il cardinale Del Monte raccoglie il libro aperto dal pavimento. Intravedo il titolo alla luce del camino e non trattengo la sorpresa. Leggete Vesalio? Un borbottio imbarazzato. Il buon Dio vorrà perdonare la curiosità di un vecchio che non riserva a se stesso altro piacere che quello di tenersi al corrente delle bizzarrie partorite dalla mente umana. Anch'io ho letto quel libro. Invero bizzarro questo manipolare cadaveri, ma ciò che al fine sembra uscirne è un grande omaggio alla grandezza di Dio e alla perfezione che ha saputo creare, non trovate? Se fossero di più, coloro che coltivano la stessa vostra curiosità, forse si eviterebbero molti fraintendimenti, come quello di vedere il male laddove non ce n'è traccia. Mi osserva con aria sorniona. Sembra un vecchio orso bonario, accoccolato sulla sedia. L'avete letto, dunque? Ma cosa vi riferite quando parlate di fraintendimenti? Ci provo. Tanti ferventi cristiani oggi rischiano di essere imprigionati per la loro voglia di rinnovare, e portare linfa nuova alla Chiesa di Roma. Vengono additati come membri di sette pericolose, come alchimisti, maghi, untori. Sono processati come nemici della Chiesa, luterani, quando essi mai e poi mai hanno osato mettere in discussione l'autorità infallibile del Papa e dei teologi. Se soltanto qualcuno nutrisse per le idee di costoro un centesimo dell'attenzione che voi ora mostrate, credo che non sarebbe difficile distinguerli dagli eretici d'Oltrarpe e dagli scismatici. Del Monte mi guarda paterno. Figlio, adesso, davanti a questo fuoco, io e te siamo soltanto due insonni. Domattina io sarò di nuovo il cardinale, vescovo di Palestrina, e potrei non potermi permettere questa liberalità. È difficile cucire armoniosamente assieme la responsabilità di un gregge amato da difendere e la giusta misura nel riprendere le pecore smarrite lungo la strada, traviate dall'intelletto, da cattive letture e insane induzioni. Decido di andare fino in fondo. Io temo l'avventatezza e la paura dei giudici. Temo che esse recidano lo spirito rinnovatore, facendo ad ogni erba un fascio. Il cardinale strizza gli occhi. Voi avete in mente qualcosa di preciso, non è così? Infatti, non so se posso permettermi di parlarne alla signoria vostra, ma l'ora tarda e l'intimità che concedete mi incoraggiano a spendere qualche parola su una faccenda che mi affligge da tempo e che riguarda un vostro conterraneo. Membro della mia diocesi? È uomo pio, eminenza. Frate Benedetto Fontanini da Mantova. Nessuna reazione. Il passo è fatto. Devo andare avanti ormai. Da mesi è recluso nel monastero di Santa Giustina di Padova, con l'accusa di essere l'autore del Beneficio di Cristo. È sospettato di apostasia. Un piccolo colpo di tosse. Su quel libello pende la scomunica, figlio. Lo so, eminenza, ma seguite il mio ragionamento, ve ne prego. La scomunica del libro da parte del Concilio di Trento risale al 1546 e per un motivo ben preciso. Solo allora, infatti, i dottori della Chiesa hanno definitivamente fissato la dottrina cattolica in materia di salvezza, dichiarando eretica la soteriologia luterana. Ebbene, frate Benedetto ha scritto il Beneficio di Cristo nel 1541, 5 anni prima che si giungesse al pronunciamento definitivo del Concilio. Annuisce, senza emettere suono. Continuo. Frate Benedetto scrisse il libro mosso dal sincero intento di offrire una sponda alla riconciliazione con i luterani. Non v'è pagina nel Beneficio di Cristo che metta in discussione l'autorità del Papa e dei Vescovi. Non v'è nulla di scandaloso. Semplicemente si enuncia a chiare lettere la dottrina della salvezza per sola fede. Ma voi sapete meglio di me, eminenza, che ci sono passi nella Bibbia che si prestano a quel tipo di interpretazione. Matteo 25,34 e Romani 8,28,30 ed Efesini 1,4,6. Del Monte sospira. So di cosa parlate. Ho letto il Beneficio di Cristo e la sorte di Fra Benedetto angustia anche me. Ma ci sono equilibri molto delicati a cui pagare un dazio, conflitti difficili da sanare. Mi sporgo appena verso di lui. Non vorrei dunque che l'incarcerazione di Fra Benedetto avesse a che fare con la guerra intestina che squassa la Chiesa, piuttosto che con i luterani. In tal caso ci sarebbe più che mai bisogno dell'intervento di personalità sopra le parti, per evitare che innocenti siano vittime di uno scontro che in vero non li riguarda. Annuisce appena. Riuscite a essere molto esplicito, ma vi dico che non è facile, soprattutto adesso che il Papa è malato e da Roma soffia il vento delle macabre trattative. Non è facile per chi vuole essere uomo di pace, rimanendo fuori dal conflitto. Qualsiasi gesto, anche quello dettato dalla più semplice carità, verrebbe oggi interpretato come uno schierarsi con l'uno o con l'altro partito. Per coloro che vogliono impedire il castigo degli innocenti, l'unica via è quella dell'appello alla carità e al buonsenso degli uomini di Chiesa. Lo incalzo. Ci sono gesti sommessi che però possono significare molto. Guarda le fiamme, che già vanno spegnendosi, come se vi cercasse qualcosa, all'aria rassegnata e stanca. Conosco bene il generale De Benedettini. Per un attimo sembra non voler aggiungere altro. Una lettera a Montecassino è il genere di cose che ancora posso permettermi. Sarebbe già tanto. Adesso penso che riuscirò a dormire. Un messaggio abbastanza esplicito. È ora di accomiatarmi. Eminenza, la vostra magnanimità è cosa rara di questi tempi. Non sono molti i santuomini di chiesa che accetterebbero di parlare con uno sconosciuto nel cuore della notte. Accogliendo persino le sue istanze, il mio nome è... Alza una mano. No. Domani il vescovo di Palestrina non potrà permettersi la confidenza di questa notte. Per quanto mi riguarda, rimarrete l'insonne erudito che mi ha tenuto compagnia.